Yeah, six. Check. Il tempo non basta mai. Vorrei scrivere mille testi, ma ho l'impressione che il tempo non basti. In due settimane ti finisco un LP, tra due anni mi ritrovo a Six. Adesso cazzo scrivi. Dove vivi? A San Miniato. Con chi vivi? Con chi da sempre mi ha amato, con chi passo tempo volentieri pure a 18 anni. Fotte il cazzo di che pensano gli altri. Flow rinnovato, restudiato a tavolino, facendo la scelta giusta come negli eroghe Chirino. Scrivo e ti faccio sognare come la Square, passando il tempo con Jack e l'amichetto Dex. Quella è la morale, non lo penso solo io. Siamo stati concepiti nascondendoci da Dio. Vagabondiamo, ma dove vai? Corro più veloce perché il tempo non basta mai. Il tempo non basta, dobbiamo ammetterlo. Se sbaglio correggo per fare presto. Come il mare sulla sabbia o le foglie col vento, con un come se non l'avessi detto. Il tempo non basta, dobbiamo ammetterlo. Se sbaglio correggo per fare presto. Come il mare sulla sabbia o le foglie col vento, con un come se non l'avessi detto. Vorrei sfottere gli infami, peccato che il tempo non basti, lo dice Yagami. In due settimane razzierei mezzo pianeta, tra due anni mi ritrovo da solo con Rea. Salgo piani, scendo scale, posso farlo. Corro dietro al tempo ma non riesco a fermarlo. Cado verso l'alto ma senza stare nello spazio. Ecco, Chrome mi ha insegnato a volare camminando. Com'è possibile, ti stai chiedendo tu? Non mi fermo all'apparenza ma guardo oltre tipo Ryuk. Vedo molto di più a capire la gente. La bocca è bugiarda ma lo sguardo non mente. È come niente, altri due minuti sono andati via. Hai imparato che il tempo è come una batteria. Lo consumi ma non si ricarica. Puoi solo rincorrerlo ma tienigli testa che scappa. Il tempo non basta, dobbiamo ammetterlo. Se sbaglio correggo per fare presto. Come il mare sulla sabbia o le foglie col vento, con un come se non l'avessi detto. Il tempo non basta, dobbiamo ammetterlo. Se sbaglio correggo per fare presto. Come il mare sulla sabbia o le foglie col vento, con un come se non l'avessi detto.